Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. È un ragionamento ferreo quello che la nostra Chiara Albicocco ci fa per introdurre il tema di stasera. E quindi io non vi anticipo niente, sentite. Una Smart City che si rispetti potrebbe organizzare le Olimpiadi. Ma una Smart City che si rispetti dovrebbe anche riciclare la carta. E per la proprietà transitiva, una Smart City che si rispetti potrebbe organizzare le cartoniadi. Non è così, Montalbetti? Certamente, ed è quello che noi stiamo cercando di fare partendo da Milano e da Napoli e poi andando lungo tutto lo stivale. Carlo Montalbetti, che è direttore generale di Comieco. Comieco, lo sapete, è il consorzio nazionale per il recupero e riciclo della carta e degli imballi in generale a base di cellulosa. Ecco, in Italia siamo a buon punto. Le cartoniadi sono partite. È un modello bello, un'iniziativa bella che è tutta italiana perché è la prima volta anche in Europa. Intanto diciamo che cos'è. È una competizione tra i diversi quartieri, per quanto riguarda per esempio Milano e Napoli e tra le municipalità locali. Chi raccoglie di più nell'arco di un mese riceve poi un premio in denaro che viene dato da Comieco e deve essere però finalizzato obbligatoriamente a finanziare un intervento di utilità sociale, quindi un'iniziativa che poi torni a beneficio della comunità. Quindi chi può partecipare? Praticamente tutti. Tutti e con una particolare occhio di riguardo verso le scuole. Abbiamo detto, è partita a Milano e Napoli, mi sembra il 1° maggio e andrà avanti fino al 31 maggio, ma poi ci sono a catena altre città e altre regioni che hanno accolto l'iniziativa. Infatti la sfida all'ultimo foglio di carta si diffonderà in tutta la regione Marche, nella regione degli Abruzzi e coinvolgerà Massa Carrara e poi quando riprenderemo dopo l'estate anche nel sud del nostro paese. Sì, chi vuole farlo lo stesso diciamo può farlo lo stesso. Allora intanto diamo le regole. Sono molto semplici, si tratta di conferire da parte del cittadino, delle famiglie in particolare e delle scuole, come ricordavo, carta e cartone ai contenitori previsti dall'amministrazione comunale e quindi all'interno dei circuiti delle raccolte differenziate dei comuni verrà poi misurato settimanalmente le quantità che ogni circoscrizione riesce a conseguire e poi si fanno le somme. Ci sono alcuni rifiuti particolari che vengono buttati nella carta ma non dovrebbero. Diamo un attimo le linee guida, ad esempio i fazzoletti di carta usati? Assolutamente no, così come gli scontrini che vengono rilasciati dai negozi. Ecco, gli scontrini scusi, no perché sono fatti di quella carta termica. Brava, ecco. Esattamente, quindi non vanno bene. Quindi devono finire nel sacco nero, così come il cartone che viene usato per portare a casa la pizza e comunque tutti quegli imballaggi o confezioni che sono fatti con materiali misti, per esempio la rivista in cellofanata, quindi va separato il cellofan dalla rivista, eccetera. Chi ne volesse sapere di più va sul nostro sito che è www.comieco.org e trova le 10 buone regole. Ecco, sul quale trovate anche ovviamente le città e i paesi e le regioni che partecipano. Direi che dobbiamo spendere qualche parola sul premio invece. Allora, per quanto riguarda il premio, è stato messo in palio per la città di Milano e quindi per il municipio che vincerà 50.000 euro e lo stesso identico premio verrà dato al municipio che vincerà a Napoli. Sono arrivati già alcune proposte da parte delle circoscrizioni, sono tutte molto interessanti perché vanno dalla riqualificazione di un tratto di una ciclopedonale alla manutenzione di un campo giochi per bambini. Quindi sono iniziative che, come dicevamo all'inizio, hanno poi come effetto quello di poter migliorare la vita della comunità locale. Ecco, questa delle cartoniadi è un'iniziativa che si sta ampliando, però mi sembra che siate arrivati già all'ottava edizione. Quindi diciamo che un bilancio si può fare sul fatto che funziona, non funziona. In effetti avete riscontrato che i cittadini partecipano e aumentano anche il carico di carta riciclata? In modo molto interessante. Mediamente durante il primo mese abbiamo un incremento del 30% della raccolta. Ah, però. Che poi, che poi si stabilizza intorno al 15%. Quindi sono dati molto interessanti. Girando per Milano si vedono i manifesti, ecco, Milano è una delle città che partecipano, dove è ritratta una famiglia, quindi la nonna, il nonno, i ragazzi, il cane, vestiti in maniera sportiva, perché sempre di competizione sportiva si tratta, essendo cartoniadi. In questo modo, diciamo, nessuno è escluso, è la prima competizione dove tutti, veramente tutti, possono partecipare. Assolutamente, e poi abbiamo pensato, quando tireremo le somme troveremo vinto a Milano e a Napoli, abbiamo pensato, d'intesa con i due sindaci, che la premiazione avvenga attraverso anche un gemellaggio tra i due municipi, quello di Milano e quello di Napoli. Che bello, va bene. Allora, in bocca al lupo, e insomma ci aspettiamo, ci risentiamo per i risultati. Senz'altro, e mi farà piacere se lo riterrete poi commentarli assieme a voi. Grazie. Arrivederci. Insomma, torna l'aspetto della qualità della raccolta differenziata. Ormai i volumi sono notevoli, la raccolta differenziata in molti comuni ha superato il 60-70% e adesso è venuto il momento di affrontare il nodo della qualità. Ne avevamo già parlato facendo riferimento alla raccolta del vetro, che può essere inquinata da vari materiali estranei, come per esempio il vetro ceramica, il vetro Pirex o appunto la ceramica stessa. Lo stesso problema si pone per la carta e per le plastiche. Se la raccolta non è di qualità, dopo la fatica della differenziazione ci si trova comunque con una certa massa di rifiuti che possono essere smaltiti solo in discarica oppure negli inceneritori. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.